GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sarà l'autopsia a definire l'identità del cadavere trovato nel giardino della casa di Vito Mezza Lira a Sagrado, il postino scomparso da anni. La sorella intanto ricostruisce come per molto tempo la compagna Mariuccia avrebbe nascosto la verità sulle condizioni del fratello. Tra minaccia di morte in meno di 6 mesi, a riceverle il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, che indice una conferenza stampa per richiamare al rispetto e abbassare i toni del confronto. 50 anni fa il trattato di Osimo ha chiuso una pagina dolorosa, il percorso di riconciliazione, ha dichiarato il presidente Mattarella, è un esempio per la comunità internazionale. Il flop del nuovo percorso di studi accorciato, il cosiddetto 4+2, pochi iscritti e pochissime scuole che hanno deciso di offrirlo, la denuncia della CGIL. Novembre, mese della prevenzione maschile, il Friuli Venezia Giulia, ogni anno si registrano circa 1100 nuovi casi di tumore alla prostata, il più comune tra gli uomini, il CRO di Aviano punta alla diagnosi precoce, a Trieste un convegno aperto a tutti in Aula Magna dell'Ateneo. Il piccolo festival dell'animazione inaugura la sua 18ª edizione a San Vito al Tagliamento, dal 15 novembre oltre 110 film da tutto il mondo in competizione. Sono le 12:31, qui al microfono Daniele Lettice, Anna Vitaliani, in regia c'è Riccardo Ostojic. Buongiorno. In apertura appunto la vicenda di Sagrado, dovrebbe essere affidata a breve l'incarico al medico legale per l'autopsia sui resti di ossa umane trovati all'interno di un pozzo profondo 4 metri nel giardino della villetta dove abitava Vito Mezza Lira, ex postino scomparso nel 2019. Intanto emerge come la compagna Mariuccia Orlando, indagata per omicidio, occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato assieme al fratellastro, avrebbe negli anni ingannato la sorella di Vito per nascondere la realtà dei fatti. Ascoltiamo come. Il pozzo di acque nere in cui sono stati ritrovati resti umani a 4 metri di profondità nella villetta di Poggio Terzo Armata, frazione di Sagrado, è nel retro della casa. Dalla strada si vede il terreno smosso. L'abitazione sotto sequestro, quella di Vito Mezza Lira, il postino scomparso, e della compagna Mariuccia Orlando, una dei due indagati assieme al fratello Moreno Redivo, è immersa nel silenzio, così come la casa disabitata a fianco, di proprietà di un vicino, anch'essa con i sigilli per assicurare un ampio perimetro all'area d'indagine. Non si hanno più notizie di Vito dal 7 luglio 2019. All'epoca della scomparsa l'uomo aveva 66 anni, oggi ne avrebbe compiuti 72. In una foto scattata qualche anno prima della sparizione lo si vede sorridente accanto a Mariuccia Orlando. I due stavano assieme da una ventina d'anni. Foto scattata a casa della sorella di Vito, Domenica, che vive in provincia di Mantova. Sarà proprio Domenica a denunciarne la scomparsa nel settembre 2023, dopo anni, a suo dire, di versioni contraddittorie date da Mariuccia. Una fuga per amore e poi l'ultimo racconto che darebbe Vito in fuga dagli strozzini in una località protetta. Intorno a Natale 2022 è l'ultima foto mandata da Mariuccia a Domenica. La sorella di Vito si arrabbia, le dice che è un fotomontaggio, dice di sapere della pensione ritirata a nome del fratello. Mariuccia a questo punto bloccherebbe il numero di Domenica. Quest'ultima, esasperata, si reca al più vicino comando dei carabinieri per sporgere denuncia. Dopo i due sopralluoghi con esito negativo nel 2023, nel 2024 l'accelerazione delle indagini da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Gorizia. Intanto a 3 giorni del ritrovamento bocche cucite dagli inquirenti. La procura di Gorizia nelle prossime ore potrebbe fornire in un comunicato qualche dettaglio in più sull'attività di ricerca che hanno portato alla scoperta del cadavere, verosimilmente quello di Vito Mezza Lira, anche se, lo ricordiamo, ancora non c'è certezza assoluta. Le ossa sono state portate all'Istituto di Medicina Legale di Trieste. Nel corpo praticamente non ci sono più parti molli, stava in quel pozzo da tanti anni. Solo l'autopsia potrà rivelare se si è trattato di morte naturale o morte violenta, ma l'esame autoptico non si preannuncia né semplice né rapido. I legali dei due indagati per omicidio in concorso, occultamento di cadavere e truffe danni dello Stato nel frattempo stanno definendo la strategia difensiva alla luce della clamorosa svolta nell'inchiesta. Gorizia, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Un appello a moderare i toni, a rispettare anche chi la pensa diversamente da noi, quello che ha fatto il vice sindaco di Udine Alessandro Venanzi, poco fa in conferenza stampa in comune a Udine per denunciare la terza minaccia di morte ricevuta in meno di 6 mesi. Una lettera anonima scritta al computer: Venanzi, ti conviene girare con il giubbotto antiproiettile, c'era scritto. Abbiamo raggiunto al telefono il vice sindaco pochi minuti prima dell'incontro con la stampa. Oggi abbiamo deciso di rendere pubblica questa cosa perché appunto ho ricevuto queste tre minacce nell'arco di pochi mesi. La prima, tra l'altro, viene tirata in ballo anche la mia famiglia, mia figlia di 5 anni. Nell'ultima, in una lettera anonima, vengo invitato a girare con il giubbotto antiproiettile. Quindi il messaggio che io voglio chiaramente lanciare oggi è quello di un invito a moderare le parole, a usare, come dire, toni pacati, chiunque abbia responsabilità pubbliche, che tu faccia il politico, che tu faccia il giornalista, che tu faccia lo sportivo, chiunque ha opportunità pubblica di visibilità deve assumere atteggiamenti forse più responsabili, ma anche abbassare i toni e non incitare ovviamente all'odio. Udine e il Friuli queste cose non le hanno mai viste. Io credo insomma che la nostra città sia una città aperta al dialogo, al confronto e mai all'odio, ha sempre respinto l'odio come forma di contrapposizione. Lei ha sporto denuncia per tutti e tre i fatti naturalmente, ma ha idea di chi potrebbe celarsi dietro a questo odio? Sì, nei primi due casi appunto sono stati identificati, in quest'ultimo non ne ho idea perché è arrivata una lettera anonima a me indirizzata proprio via posta al protocollo del Comune di Udine, non è firmata e quindi è scritta a computer, quindi è difficile credo anche immaginare chi. Io so di avere un ruolo pubblico, so chiaramente di essere esposto, però insomma come dire, i toni fanno la differenza, ma anche le responsabilità sono diverse, insomma, ecco. E ora un'ultima ora di cronaca. Ci sarebbe anche un triestino tra gli indagati della Procura di Milano per il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti nell'ambito di un'inchiesta sui presunti turisti della guerra che negli anni dei conflitti dell'ex Jugoslavia tra il 93 e il 95 partivano dal nostro paese pagando somme ingenti ai militari serbi per partecipare all'assedio di Sarajevo e sparare per divertimento contro i cittadini della capitale bosniaca. Il fascicolo è stato aperto dal PM Alessandro Gobbis e dal momento a carico di ignoti. L'indagine nasce dall'esposto presentato dal giornalista e scrittore Ezio Gavezzini, che avrebbe ricevuto informazioni da una fonte che faceva parte dell'intelligence bosniaca. In base alle testimonianze raccolte da tutto il nord Italia, alcune persone, per lo più simpatizzanti di estrema destra con la passione per le armi, si radunavano a Trieste e venivano portati poi sulle colline attorno a Sarajevo, dove potevano sparare sulla popolazione della città assediata dopo aver pagato le milizie serbo-bosniache di Karadzic. Lo scrittore nelle 17 pagine di questo esposto dà conto che in una testimonianza ha riportato che tra questi ci fossero degli italiani, un uomo di Torino, si dice, un uomo di Milano e l'ultimo di Trieste. Intensificati i controlli della Guardia di Finanza sul settore della nautica da diporto, concentrandosi su imbarcazioni battenti bandiera estera ma di proprietà di cittadini italiani. Una operazione recente ha portato al controllo di oltre 50 imbarcazioni, di cui 8 non risultavano correttamente dichiarate ai fini fiscali, con un valore complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Le sanzioni amministrative per le violazioni riscontrate ammontano a più di 75 mila euro. Questo intervento rientra in un piano di controlli più ampio della Guardia di Finanza, confermando il ruolo delle forze di polizia nella tutela della legalità degli interessi economico-finanziari del Paese. 50 anni fa, esatti oggi, 10 novembre, vennero firmati gli accordi di Osimo tra il governo italiano e quello jugoslavo e sancirono lo status quo che si era determinato nel 54, stabilendo definitivamente la sovranità italiana su Trieste, la zona A, e quella jugoslava sulla zona B da Ancarano al fiume Quieto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina in questa data così importante. La buona volontà delle parti, ha detto il capo dello Stato, ha consentito di chiudere in quelle aree uno dei passaggi più amari della recente storia italiana, trasformandola nel giro di pochi anni da pagina dolorosa a confine il più aperto d'Europa e da luogo di aspra contrapposizione a luogo di cooperazione, consolidato in seguito dalla comune appartenenza con Slovenia e Croazia all'Unione Europea. La cooperazione transfrontaliera, il riconoscimento delle rispettive minoranze linguistiche nelle zone di insediamento storico, fondamentale elemento di dialogo e di sviluppo congiunto, ha concorso a bonificare l'odio e a promuovere benessere e stabilità per le rispettive comunità, ha concluso Mattarella. In occasione dell'anniversario del Trattato di Osimo, la Lega Nazionale di Trieste ha organizzato per questo pomeriggio alle 16 un convegno di studi nella sede della Camera di Commercio in Piazza della Borsa, con gli interventi di studiosi ed esponenti istituzionali. Tra le memorie storiche c'è Monsignor Ettore Malnati, che è stato segretario del Vescovo Antonio Santini in carica a quel tempo, e anche Paolo Sardos Albertini, presidente della Lega Nazionale. Sempre alle 16, ma a Roma, alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, la presentazione del volume Documenti sulla pace adriatica, il negoziato per gli accordi di Osimo nelle carte della diplomazia italiana. Un evento organizzato dal Comitato Scientifico per il Trattato in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste. Relatore, il curatore del volume, Massimo Buccarelli, ordinario dell'Università La Sapienza di Roma. E tornando a Trieste, alle 18.30 la messa in memoria degli esuli alla chiesa di Santa Rita di Via Locchi. Alle 19 si svolgerà una fiaccolata commemorativa da Via Donota alla Fontana Tricolore di San Giusto, organizzata dall'associazione Pro Patria. Ancora cronaca, la polizia di Udine ha arrestato due cittadini pakistani di 39 e 31 anni per detenzione illecita di stupefacenti. Gli uomini sono stati fermati dalla squadra mobile durante un controllo nella zona di Via Cividale, dove avevano nascosto 2 kg di hashish e 102 g di cocaina pronti per lo spaccio. La droga è stata trovata grazie all'intervento di un'unità cinofila della Guardia di Finanza. Sono stati inoltre sequestrati 5.000 euro provento dell'attività di spaccio. I due, muniti di permesso di soggiorno, sono stati arrestati e condotti in carcere. Fincantieri rafforza la collaborazione con Norwegian Cruise Line con un nuovo ordine per la costruzione di una nave da crociera ultralusso destinata al brand Regent Seven Seas Cruises. Il valore della commessa, spiega Fincantieri in una nota, è compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. La consegna dell'unità è prevista nel 2033. Si tratterà della nave gemella di Seven Seas Prestige in costruzione nel cantiere di Marghera e in consegna nel 26, una seconda unità della stessa classe già pianificata nel 2030. La nuova nave potrà accogliere 822 passeggeri. Fincantieri ha già realizzato 10 navi per i brand del gruppo norvegese. Il portafoglio ordine attuale comprende 13 ulteriori unità. Sono 9 su 36 gli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia che hanno scelto di attivare il cosiddetto percorso scolastico del 4 più 2, 4 anni di scuola superiore e 2 di istituto tecnico superiore. Un flop, secondo la CGIL, che parla di soli 150 iscritti in un bacino che ne conta 4.000 potenziali. Diamo fiducia a una novità, sono invece le parole dell'assessore Rosolen, che crede nel progetto e anzi dice siamo in ritardo rispetto a Francia e Germania. 9 dei 33 istituti tecnici professionali della regione dell'anno scolastico in corso 2025-26 hanno aderito al cosiddetto 4 più 2, ovvero i 4 anni di scuola secondaria superiore tecnico professionale seguiti da 2 anni di specializzazione negli istituti tecnologici superiori, gli IZ Academy, 7 in provincia di Udine, 1 in quella di Pordenone, nessuna adesione a Trieste e Gorizia, con in tutto circa 150 iscritti sul totale dei 4.000 iscritti alle classi prime, numeri ben al di sotto delle aspettative per un'offerta oggi ordinaria e strutturale critica. Nel rilanciarli la CGIL, le classi sono state autorizzate in deroga ai parametri vigenti sul tetto minimo di alunni, rimarca il segretario regionale della FLC CGIL Massimo Gargiulo, che sulla scorta delle scarse adesioni rileva come non solo le scuole ma soprattutto le famiglie non stanno mostrando alcun interesse per questo modello formativo. Gargiulo ricorda che anche i precedenti avviati da vari governi negli ultimi 10 anni, sempre con la contrarietà del suo sindacato, hanno avuto gli stessi esiti deludenti in tutta Italia. Gargiulo ribadisce il no della CGIL a questo sistema, che definisce una forzatura realizzata in funzione di una canalizzazione precoce degli studenti verso il lavoro. A rischio anche l'autonomia scolastica e gli organici nelle scuole, per la CGIL, che auspica un confronto con la Regione per poter arrivare a dei correttivi. È una legge dello Stato, ho l'obbligo di lavorarci e ci credo fermamente, replica l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, sottolineando che si tratta di un'innovazione completa di un sistema scolastico che in Italia non ha mai garantito la mobilità degli studenti tra scuola e formazione, né mai lavorato su una verticalità che arrivasse al sistema degli ITS, un percorso che si sarebbe dovuto costruire ben prima e che, come tutte le riforme, ha bisogno di tempo per decollare, aggiunge Rosolen, anticipando che tante altre scuole si stanno muovendo su questa strada e hanno già deliberato l'avvio del 4 più 2 dal prossimo anno scolastico. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Sanità ora, parliamo di antibiotico resistenza, aumenta la consapevolezza sia in ambito sanitario, ambientale, ma anche per la salute animale, ma sembrano mancare le alternative. Ci vorranno anni, dicono gli esperti, prima che i monoclonari diventino un'alternativa efficace e disponibile sul commercio. In Area Science Park, un workshop su questo tema. È da almeno 25 anni che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di antibiotico resistenza come minaccia globale per la salute umana, un fenomeno ben noto, quello dei batteri che nel tempo sviluppano la capacità di resistere ai farmaci antimicrobici, che quindi smettono di funzionare. Gli effetti si vedono nella quotidianità, si prescrivono antibiotici in modo più consapevole. Marina Busetti, microbiologa di Asugi. Un aumento della sensibilità verso il problema, senz'altro, delle precauzioni utilizzate anche a livello ospedaliero e di prescrizioni, ma c'è in qualche modo una mancanza di innovazione, perché tra i farmaci che sono attualmente allo studio in questo settore, che sono circa 90, soltanto 15 possono essere definiti a livello globale come estremamente innovativi. I farmaci monoclonali sono un'alternativa promettente, ma ci vorranno molti anni prima di vederli negli scaffali delle farmacie. Come funzionano? Claudia Sala, della Fondazione Biotecnopolo di Siena. Forniscono la possibilità di andare a colpire specificamente quei batteri e solo quelli che sono patogeni per noi, quindi ci permettono anche di risparmiare tutta quella che volgarmente chiamiamo flora batterica e che meglio si definirebbe come microbiota, e quindi ci permettono appunto di andare molto specifici su quei batteri che causano la malattia. L'Area Science Park di Padriciano sta sviluppando studi in questa direzione e ha organizzato un convegno internazionale con approfondimenti in tema di polmoniti, tubercolosi, ascessi, malattie pediatriche e anche sugli sviluppi della ricerca. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Novembre è il mese della prevenzione del tumore alla prostata e più in generale della prevenzione maschile. In Friuli Venezia Giulia ogni anno, fa sapere il CRO di Aviano in una nota stampa, si registrano circa 1100 nuovi casi di tumore alla prostata. Si tratta del tumore più frequente nella popolazione maschile. È guaribile se gestito in modo appropriato, con una sopravvivenza che si avvicina al 100% quando il tumore è diagnosticato in una fase precoce. I tumori del testicolo sono invece molto meno frequenti, circa 50 casi l'anno, ma si tratta della neoplasia più diagnosticata nei giovani adulti sotto i 40 anni, che hanno una probabilità di guarigione superiore al 95% in questa fascia d'età. Il CRO di Aviano ricorda che da quasi 30 anni esiste un gruppo multidisciplinare interaziendale che coinvolge specialisti dell'ospedale di Pordenone e del centro di riferimento oncologico di Aviano. Uno dei messaggi fondamentali che gli specialisti intendono veicolare è l'importanza di una visita e di un controllo specialistico, in particolare in presenza di sintomi urinari. All'Università di Trieste nel pomeriggio un evento aperto a tutta la città proprio su questo tema, Movember UniTS, un pomeriggio dedicato al benessere e alla salute degli uomini di tutte le fasce d'età, con gli interventi di docenti, medici, atleti ed esponenti del mondo dello sport, tra cui Daniele Cavaliero della Pallacanestro Trieste, Andrea Razzi della Pallanuoto Trieste e la partecipazione del Rugby Trieste, che ha lanciato anche una serie di iniziative e campagne social sulla prevenzione. Si inizia alle 14 nell'Aula Magna dell'Ateneo. Sarà posata oggi a Feletto Umberto la prima pietra del villaggio di Cohausen dedicata al dirigente sportivo Enzo Cainero, scomparso nel 2023, un progetto abitativo e comunitario unico nel suo genere. La struttura è progettata per accogliere oltre 60 persone, permettendo ai figli con disturbo dello spettro autistico di vivere in una comunità protetta insieme ai propri genitori, garantendo assistenza anche quando questi ultimi diventeranno fragili. La cerimonia, a cui parteciperanno esponenti delle istituzioni, tra cui il presidente della regione Fedriga, del corpo degli alpini e del mondo sportivo, si svolgerà alle 17.30 presso la sede della Fondazione Progetto Autismo in via Perugia. Il dopo di noi è una delle maggiori preoccupazioni dei genitori con figli con disabilità psichica, ma anche la gestione di figli fragili con l'invecchiamento diventa molto complessa. C'è un accudimento non solamente delle persone fragili con autismo, ma anche dei genitori fragili, quindi ci sarà un doppio accudimento. Questo non esiste, non c'è, l'abbiamo ideato noi. Togliere il figlio con autismo dai genitori invecchiati significa creare per questa persona un problema gravissimo che poi crea un'acuzie psichiatrica che spesso viene sedata con gli psicofarmaci. Ci aiuti a immaginare come sarà la vita all'interno di questo villaggio? Ci saranno dei mini appartamenti? Com'è strutturato? villaggio si estende in un compound su tre piani. Al piano terra ci saranno gli alloggi per i badanti specializzati, dopodiché ci sarà una clubhouse ristorante, perché avremo una necessità anche di fornire i pasti a tutto il compound, ma anche al centro, che abbiamo già Feletto Umberto di 2700 metri quadri in cui assistiamo 98 persone in questo momento, una palestra, la lavanderia, l'infermeria. Al piano secondo ci saranno altri 4 ambulatori per la riabilitazione dei piccoli, quindi potremo ospitare altri 40 bambini per la riabilitazione. All'ultimo piano ci saranno le casette. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio di intervista era Elena Bulfone, presidente della Fondazione Autismo Friuli Venezia Giulia. Continuiamo con i temi della sanità. Secondo l'osservatorio dell'Associazione Luca Coscioni, in Friuli Venezia Giulia sono state depositate 3.632 DAT, disposizioni anticipate di trattamento, pari a una ogni 172 abitanti, dati aggiornati al 31 dicembre 2023. Fino al 19 novembre su TV, radio, giornali, cinema si vedrà Oggi scegli tu, la più ampia campagna di informazione mai realizzata in Italia proprio sulle DAT. Obiettivo dell'iniziativa è far conoscere il diritto garantito dalla legge 219 del 2017 di decidere anticipatamente come essere curati o non curati qualora in futuro non si sia più in grado di esprimere le proprie volontà. Una tutela fondamentale del principio di autodeterminazione che si estende fino alla fase finale della vita. Lo spot, realizzato grazie alle donazioni e al 5 per 1000, porta la voce di Luciana Litizzetto. La campagna invita a informarsi e a depositare le proprie DAT sul sito Associazione Luca Coscioni.it. È disponibile gratuitamente un modello aggiornato elaborato da giuristi, medici ed esperti. E ora sono le 12.51, diamo uno sguardo al meteo. Cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste, Udine 16 gradi e mezzo, Gorizia 17, Pordenone 15, Forni di Sopra 11 gradi, Tolmezzo 10, Piancavallo 10, Tarvisio 7 gradi, Sappada 6 gradi, Monte Zoncolan 7 gradi, Monte Lussari 3, tornando sulla costa, Grado 17 gradi, Lignano 15. Le previsioni per oggi pomeriggio, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, a Trieste soffierà Borino. Presentato questa mattina a San Vito al Tagliamento il piccolo festival dell'animazione, la rassegna dedicata all'illustrazione e all'animazione d'autore organizzata dall'associazione Viva Comics, l'edizione numero 18 si tiene dal 15 al 23 novembre con oltre 110 film in competizione provenienti da tutto il mondo, dall'Italia alla Slovenia, alla Croazia, ma anche Francia, Argentina, Stati Uniti, Giappone, Taiwan. L'evento si svolge principalmente a San Vito al Tagliamento, sede del festival, ma anche ai cinema di Pordenone, Verone, Udine, Staranzano e Trieste. Abbiamo raggiunto al telefono la direttrice artistica Paola Bristot. Il festival apre il 15 novembre a San Vito al Tagliamento con 110 film in proiezione che verranno distribuiti un po' nei 6 programmi visibili, ecco, sparsi nelle sedi del festival e concentrati nei 3 giorni a San Vito al Tagliamento dal 21 al 23. Tra gli ospiti il regista argentino Juan Pablo Zaramella, che ha dato anche l'immagine del film dal suo pluripremiato cortometraggio Luminaris, che ha avuto 350 premi nei festival internazionali, e Michaela Müller, che è un'autrice importante svizzera che ha realizzato la sigla del festival, oltre ad avere circa 40 registi, operatori che vengono al festival, tra gli italiani cito Michele Bernardi, poi c'è Bianca Girardi, Francesca Ferrario, e poi una mostra che è collegata al festival nella chiesa di San Lorenzo. Un evento speciale di quest'anno è dedicato a Pasolini nel 50° della morte, con i 3 allegri ragazzi morti. Sì, all'interno del festival ospitiamo anche il progetto La Via di Casa dei 3 allegri ragazzi morti, con il concerto live che si svolgerà sabato sera e la domenica pomeriggio nell'auditorium, che è anche la sede di tutte le proiezioni a San Vito al Tagliamento del festival. E in mostra abbiamo delle opere di Davide Toffolo dedicate appunto a Pasolini, con nella sezione proprio dedicata della mostra, che comprende oltre alle sue opere anche la sezione Identità animate. Si svolge oggi tra Gorizia e Nova Gorizia uno degli appuntamenti più interessanti del cartello cartellone della capitale europea della cultura, il Festival della Complessità, un appuntamento curato da Dan Sanaren, dottorando al Centro Nazionale delle Ricerche Scientifiche di Parigi, che porterà numerosi studiosi internazionali che lavorano all'intersezione tra ricerca, giornalismo e attivismo a confrontarsi in spazi formali e informali, dalle sale conferenze ai caffè e ai bar, per parlare dei rapporti in continua evoluzione tra società civile, giornalismo e scienze sociali. L'inaugurazione alle 15 all'Epicenter di Nova Gorizia. In chiusura, il giornalista e autore Massimo Bernardini, noto giornalista e conduttore televisivo Rai, ha ricevuto il premio Pordenone Musica 2025, riconoscimento dedicato a chi ha contribuito a trasmettere la passione per la musica nelle nuove generazioni. Ed è tutto per questa edizione del GR, redatta e condotta da Daniele Letige e Anna Vitaliani. In studio, in regia ha collaborato Samantha Gon, in redazione ha collaborato Samantha Gon, in regia c'è Riccardo Ostoici. A tutti grazie per l'ascolto, l'informazione con il GR regionale torna alle ore 15. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.